Mario. Tira la cola. E dici che mi sento meglio col portatile. A questo punto metto il portatile. Oh, io ti sento bene. E cavo, pure io ti sento. Tutti passaggi. Cola. Cappa al centro di copio, ancora di copio. Tutto oggi. Ma tu mi ascolti, sì, ancora mi ascolti. Fammi dire che ando io.